Benvenuti a The Debate, uno spazio di indagine e confronto intellettuale per esplorare le molteplici sfaccettature delle idee che plasmano il nostro tempo. Immaginate di scoprire che il nuovo luccicante strumento di intelligenza artificiale, appena adottato dalla scuola dei vostri figli, non sia insomma solo un ausilio per lo studio. Un innocuo aiuto per i compiti. Esatto, un innocuo aiuto. Ma che sia invece un aspirapolvere invisibile, cioè un sistema che usa i compiti, le domande, persino le incertezze dei ragazzi per addestrare gratuitamente i futuri modelli commerciali della Silicon Valley. Stiamo davvero trasformando le aule scolastiche in fattorie di dati. È la domanda centrale di oggi, guarda. Sì, perché oggi non parliamo dell'intelligenza artificiale come di un semplice aggiornamento del software didattico. Ne parliamo proprio come di un vero e proprio campo di battaglia etico e politico. Ed è un campo di battaglia che si sta delineando con molta, molta chiarezza. Diciamo che il nostro punto di partenza per questa analisi è un articolo estremamente netto, molto polarizzante, pubblicato il 28 aprile 2026 sul sito dell'Associazione De Scola. L'autore è Marco Guastavigna e il testo si intitola Andiamo oltre, ma davvero? E guarda, si tratta di una riflessione che nasce a margine di un seminario sull'IA a scuola, ma che poi, si trasforma rapidamente in un vero atto d'accusa contro l'intera infrastruttura tecnologica che stiamo portando nelle classi. E per mettere subito le carte in tavola, insomma, per chiarire le nostre posizioni su questo testo, io ritengo che l'analisi di Marco Guastavigna sia non solo corretta, ma assolutamente vitale oggi. Cioè, sono convinto che l'autore smascheri l'intelligenza artificiale mainstream per quello che è realmente. Ovvero il male assoluto, suppongo. Beh, uno strumento di estrazione capitalistica e di dominio culturale. E la scuola pubblica, secondo me, ha il dovere di contrastarlo per proteggere l'autonomia cognitiva degli studenti. Sono totalmente d'accordo con l'autore, insomma. Io invece mi trovo in totale, ma proprio radicale disaccordo con le conclusioni di Guastavigna. Cioè, sono convinta che sia una lettura viziata da un'astrazione ideologica fortissima. Addirittura un'astrazione. Sì, perché nel suo furore teorico, questo articolo ignora completamente la realtà pragmatica dell'apprendimento. Finisce per bollare come asservimento quella che in realtà è un'alfabetizzazione tecnologica, indispensabile per i ragazzi di oggi. Allora, partiamo dalle fondamenta della critica di Guastavigna, che voglio fare mia per un motivo molto semplice. Smonta un'illusione. L'autore fa notare che, nel seminario a cui ha partecipato, la discussione sull'IA era dominata da quelle che lui definisce eccessive spiegazioni tecnocratiche. Le spiegazioni di computer science. Esatto. Si parlava solo di reti neurali, di vettori, di informatica pura. Ma limitare il discorso alla computer science è come spiegare il motore a scoppio ignorando l'industria petrolifera e il cambiamento climatico. Cioè, non ha senso. L'IA non è solo codice, è un apparato sociotecnico al servizio della logistica della conoscenza a vocazione capitalistica. Fermiamoci un attimo su questa definizione, per favore, perché, guarda, suona molto bene in un saggio universitario o in un dibattito accademico, ma dobbiamo calarla nella realtà di una classe di terza media. E caliamola. Cosa significa, all'atto pratico, dire che un'app per riassumere i testi è logistica della conoscenza a vocazione capitalistica? Cioè, mi sembra un'etichetta gigante per una cosa molto piccola. Significa spiegare ai ragazzi cosa c'è dietro il trucco di magia, semplicemente. Quando mostri a uno studente un modello linguistico che, boom, genera un testo perfetto in 3 secondi, ma ometti di spiegargli come quel modello è nato, stai compiendo un atto di disinformazione pedagogica. Non gli parli del microlavoro invisibilizzato, per esempio. Ti riferisci ai lavoratori che etichettano i dati, giusto? Esattamente a loro. Per far sì che l'intelligenza artificiale sembri così, intelligente, e non generi contenuti inopportuni, ci sono decine di migliaia di lavoratori. E dove sono? Spesso nei paesi del sud del mondo, pagati pochi centesimi all'ora per classificare manualmente testi e immagini tossiche. È un lavoro alienante e del tutto invisibile. E poi ci sono gli oligopoli, enormi concentrazioni di potere nelle mani di pochissime aziende tecnologiche che di fatto dettano le regole del gioco. Se la scuola si limita a dire «ecco come si usa questo strumento per fare i compiti», sta solo preparando futuri consumatori acritici. Perfetti ingranaggi per un sistema basato sull'accumulazione di profitto. Guastavigna ha ragione da vendere. L'istruzione deve essere emancipazione nel presente, non sottomissione. Capisco perfettamente il fascino teorico di questa critica, credimi. È la classica posizione neo-illuminista che vuole purificare il mondo, ma la trovo profondamente fuorviante e francamente dannosa se applicata alla lettera. Dannosa perché? Perché l'autore attacca le spiegazioni tecnocratiche e bolla la comprensione tecnica di questi strumenti come se fosse una forma di complicità con il capitale. Ma è esattamente il contrario. Non credo dica di non capire la tecnica. Ma lo implica. La comprensione tecnica, quella cruda, ingegneristica, è l'unico vaccino contro l'asservimento. Se tu non capisci matematicamente come funziona una rete neurale, ne sarai sempre succube. Penserai che sia magia, come dicevi tu. O peggio, che sia un'autorità oggettiva e infallibile. Ma scusa, Guastavigna non dice di non studiare l'informatica. Dice di non fermarsi alla meccanica ignorando il sistema politico ed economico che la finanzia. Sono due cose diverse. Eppure propone una dicotomia che non regge assolutamente alla prova della realtà. Divide il mondo tecnologico in dispositivi estrattivi, cioè il male assoluto commerciale, e dispositivi conviviali, cioè l'utopia del software libero e autogestito. Che è un'alternativa valida. Ma rifiutare le piattaforme mainstream in blocco è un lusso intellettuale che la scuola pubblica non può permettersi. Queste piattaforme, pur con i difetti enormi che citi, offrono un potenziale formativo, un'interfaccia usabile e una scala che le soluzioni autogestite di nicchia non eguaglieranno mai. Se la scuola decide di boicottarle per una questione di purezza morale, l'unico risultato sarà condannare i propri studenti all'analfabetismo digitale. L'analfabetismo digitale lo crei proprio quando insegni a premere un bottone senza capire chi possiede quel bottone, guarda. Ma entriamo nel vivo del disaccordo. L'autore critica aspramente l'idea che la scuola debba essere semplicemente una preparazione al futuro. E questo è un altro cortocircuito logico del testo. Cioè dire che la scuola non debba preparare al futuro è un nonsenso pedagogico, su. Dipende da quale futuro. Preparare al futuro non significa trasformare i ragazzi in schiavi del tecnocapitalismo. Significa, in modo molto ma molto pragmatico, fornire loro gli strumenti per competere in un mondo del lavoro che esigerà la conoscenza di questi sistemi. Lasciami fare un'analogia storica, ok? Vai, sentiamo. Immaginiamo di essere in una scuola italiana agli inizi del Novecento. L'impero britannico domina il mondo attraverso il colonialismo e l'imperialismo più sfrenato. Cosa facciamo? Rifiutiamo di insegnare la lingua inglese ai nostri studenti per boicottare l'imperialismo britannico? È un'analogia, diciamo, interessante. Ma lo è perché l'inglese era indubbiamente il veicolo di un'egemonia culturale ed economica predatoria. Però decidere di non insegnarlo non avrebbe fatto crollare l'impero britannico, giusto? Certo che no! Avrebbe unicamente danneggiato quegli studenti, rendendoli incapaci di comunicare, di commerciare o persino di sedersi a un tavolo internazionale per far valere i propri diritti. L'intelligenza artificiale commerciale oggi è la nuova lingua franca. Non insegnarla nelle scuole per fare un dispetto alle big tech è, a tutti gli effetti, un suicidio educativo autoinflitto. L'analogia regge, ma solo in superficie. Credimi, c'è un difetto di fondo nel paragonare l'IA all'insegnamento dell'inglese. Se io imparo e parlo la lingua inglese, il governo britannico o una multinazionale americana non stanno estraendo segretamente i miei pensieri mentre parlo per confezionare un prodotto. Fammi finire. L'inglese non si appropria dei miei dati biometrici o cognitivi per rivenderli agli inserzionisti. Come sottolinea Guastavigna in un passaggio cruciale, le intelligenze artificiali trasformano il linguaggio umano stesso in un asset. Spieghiamo bene questa parola a chi ci ascolta. Asset. Certo, un asset è un bene economico. Quando usi un'IA estrattiva, generata da una grande azienda tecnologica, ogni tuo prompt, ogni tua singola domanda, ogni correzione che fai al testo generato viene inglobato nel sistema. Stai fornendo lavoro gratuito per affinare il loro prodotto commerciale. Stai letteralmente regalando le tue interazioni a un'economia fondata sull'accumulazione di dati. Non è come imparare una grammatica neutrale. Accettare questa dinamica in classe significa insegnare ai cittadini che è del tutto normale cedere la propria sovranità cognitiva in cambio di una comodità temporanea. La scuola dovrebbe essere la prima linea di difesa contro questa mercificazione. Guarda, nessuno nega che l'economia dei dati funzioni così, lo sappiamo. Ma l'idea che, nascondendo questi strumenti dentro le aule, si fermi il processo di estrazione è un'illusione ottica. Anzi, ti dirò di più, si trasforma in un alibi per la paralisi. Paralisi? In che senso? Nel senso che, se un collegio docenti decide che tutto ciò che viene dalla Silicon Valley è estrattivismo capitalista e va bandito, sai cosa succede nel mondo reale? Non succede assolutamente niente. La scuola chiude la porta e alle 2 del pomeriggio, appena usciti dal cancello, quegli stessi ragazzi tireranno fuori lo smartphone. Questo è sicuro. E useranno gli stessi identici strumenti commerciali per farsi fare i riassunti di storie o le traduzioni, solo che lo faranno da soli, in modo furtivo, senza nessun adulto che insegni loro a difendersi o a capire davvero come vengono usati i loro dati. Ma il problema sollevato da Guastavigna è molto più profondo della semplice profilazione pubblicitaria. Si spinge a parlare di danni invisibili e usa 2 parole che pesano come macigni: potenziali ecocidi e avvenuti epistemicidi. Ecco, ci risiamo. Queste sono esattamente le iperboli accademiche di cui parlavo all'inizio. Smontiamole, dai. Ma non sono iperboli. Proviamo a decifrarle in modo semplice. L'ecocidio si riferisce all'impatto fisico reale devastante di questa tecnologia. Un semplice utente che fa una ricerca con un'IA generativa consuma molta, ma molta più acqua ed energia elettrica attraverso i data center rispetto a una ricerca tradizionale. Sì, i consumi energetici sono un tema, lo ammetto. Ma la parola più potente è epistemicidio. Con questo termine Guastavigna intende la distruzione, proprio l'annientamento di forme di conoscenza alternative. Cioè, come funziona l'addestramento di questi modelli? Ingeriscono dati. Ingeriscono miliardi di testi presi da internet, esatto. Ma internet non è una rappresentazione paritaria del mondo. È dominato dalla cultura occidentale, principalmente in lingua inglese. Di conseguenza, l'IA statistica incorpora e amplifica la supremazia occidentale, cancella le prospettive marginali. E noi come facciamo a introdurre in classe, spacciandolo per uno strumento neutro, un oracolo che di fatto cancella intere visioni del mondo e rinforza un'omologazione culturale totale? Riconosco che il bias esista, non sono cieca. I dati di addestramento riflettono inevitabilmente le asimmetrie storiche e i pregiudizi sistemici della nostra società. Ma, ti ripeto, la soluzione non è boicottare i sistemi globali per paura dell'omologazione. E qual è allora? La soluzione pedagogica è usare quegli stessi strumenti per insegnare ai ragazzi il pensiero critico. Prendi un modello globale commerciale, accendilo in classe davanti agli studenti e chiedi loro, non so, facciamogli una domanda su un evento storico. Notate come la risposta sia eurocentrica. Perché la macchina ha risposto così? Quale visione del mondo sta escludendo? Questa è un'educazione critica formidabile. Nascondere la macchina perché è impura o epistemicida non li proteggerà minimamente quando entreranno in un mondo dominato da queste logiche. È una visione affascinante, ma insomma è come insegnare a riconoscere l'inquinamento respirando gas di scarico. Insegnare a vedere il bias è utile, per carità, ma usare questi strumenti significa comunque validare e alimentare il loro monopolio. Dipende da come li usi. Ma arriviamo alla parte propositiva dell'articolo di Guastavigna, perché questo smonta l'accusa di voler solo distruggere e basta. Lui propone una soluzione: andare oltre la linea di partenza e abbracciare i famosi dispositivi conviviali. Ah, il famoso ecosistema locale. Sì, dai, entriamo nei dettagli tecnici di questa proposta, perché qui ci divertiamo. Volentieri, perché è proprio qui che si capisce l'alternativa reale. L'autore propone di costruire un ambiente scolastico basato su server locali. Invece di far collegare gli studenti ai server delle grandi aziende americane, la scuola ospita fisicamente sul proprio hardware dei modelli linguistici aperti, cioè open source. Ok. Questi modelli non spediscono i dati a nessuno. Elaborano tutto all'interno delle mura scolastiche, al sicuro. Da questa base privata si possono creare applicazioni specifiche. E Guastavigna cita strumenti concreti, Antigravity, Visual Studio Code, Cursor, Zed e le estensioni di LibreOffice Portable. In parole povere, si tratta di software di scrittura e di programmazione che possono essere collegati all'intelligenza artificiale locale. Sì, sì, ho letto la lista. Il punto rivoluzionario è che oggi, grazie all'IA, non serve più essere uno scriba del codice. Non serve essere un programmatore esperto per creare piccole applicazioni utili alla classe. Docenti e studenti diventano creatori attivi di beni comuni, sfuggendo finalmente alla mercificazione. Guarda, è proprio qui, su questo esatto punto, che l'intero impianto logico di Guastavigna crolla miseramente su se stesso. Svela una contraddizione strutturale che per me svuota l'intero articolo. Quale sarebbe questa contraddizione, scusa? Ci sono due enormi buchi neri nella sua teoria. Partiamo dal primo. Quello tecnologico. Nella prima parte del testo l'autore attacca i colleghi perché si concentrano su eccessive spiegazioni tecnocratiche, no? Vuole una pedagogia che voli alto, oltre i cavi e i server. Sì. Poi però, qual è la sua proposta pratica per liberare le masse? Installare e mantenere server locali, far girare large language models su macchine della scuola, usare ambienti di sviluppo integrato, i famosi IDE, come Visual Studio Code, Cursor o Zed. Voglio chiarire, per chi ci ascolta e non è del mestiere, cosa sono questi nomi. Sono strumenti di sviluppo. Sono strumenti complessi progettati per sviluppatori software professionisti. Non sono app che scarichi sul telefono in due secondi premendo un tasto. Certo che no, ma l'autore sottolinea che l'IA stessa, oggi, aiuta a scrivere il codice, abbassando la barriera all'ingresso in modo pazzesco. Abbassando la barriera rispetto a un ingegnere informatico, forse, ma alzandola in modo insormontabile per la scuola reale di tutti i giorni. Guastavigna sta chiedendo a un professore di lettere, che magari già fatica ad accedere al registro elettronico perché il wifi dell'istituto cade in continuazione, di rifiutare una piattaforma commerciale facile e intuitiva per adottare un flusso di lavoro da sistemista Linux. Mi sembra una caricatura della situazione, dai. No, è la realtà. E questo solleva un problema di risorse clamoroso. Per far girare un modello di intelligenza artificiale decente in locale, servono macchine potenti, servono schede grafiche molto costose. Chi le paga? E soprattutto chi le mantiene? Beh, torneremo all'epoca in cui ogni scuola aveva un serverino impolverato nello sgabuzzino, mantenuto in vita per miracolo dal professore di matematica appassionato di informatica di turno. E sai cosa succede? Appena quel professore va in pensione, l'intera infrastruttura didattica crolla. Se proponi una soluzione accessibile solo a una minuscola elite di docenti con competenze informatiche altissime, non stai democratizzando un bel niente, stai solo creando una nuova oligarchia tecnica. Non credo affatto sia giusto ridurre la proposta di Guastavigna all'immagine del server impolverato. Lui stesso, nel testo, la definisce esplicitamente come non molto di più di una provocazione, che aspira però a costruire una prospettiva del tutto diversa. Una provocazione irrealistica. È ovvio che richieda uno sforzo sistemico, Magari gestito dagli animatori digitali dell'istituto o dal ministero, non dal singolo docente di lettere abbandonato a se stesso. E attenzione, LibreOffice Portable, per fare un esempio che cita, non è un ambiente per hacker con lo schermo nero a scritte verdi. È un normalissimo programma di videoscrittura, libero e gratuito, che può integrare aiuti alla scrittura senza rubarti dati. Non è fantascienza. Ma questa provocazione ci porta dritti al secondo buco nero, che secondo me è ancora più grave perché smonta la sua stessa premessa etica. Parliamo dell'epistemicidio. Prego, sentiamo. L'autore dice che l'IA commerciale è cattiva perché è addestrata su dati occidentali, porta bias e cancella culture minoritarie, giusto? Esattamente. Quindi la soluzione sarebbe usare un'intelligenza artificiale open source installata in locale per creare un dispositivo conviviale. Ma qui c'è un errore logico fatale. Da dove pensa che arrivino quei modelli open source che lui consiglia di scaricare? Da organizzazioni. Modelli liberi come l'AMMA di Meta o altri sono addestrati esattamente sugli stessi immensi database occidentali e spesso dalle stesse identiche multinazionali tecnologiche che lui critica. Installarlo sul server della scuola non purifica magicamente il modello dai suoi bias. Il modello conviviale penserà e risponderà con gli stessi identici pregiudizi di quello estrattivo, perché ha letto gli stessi dati. Guarda, è un'osservazione acuta sui modelli attuali, questo lo ammetto. C'è un'origine comune dei dati, ma la differenza sta nel controllo. Se il modello gira sui tuoi server, hai la possibilità di personalizzarlo, di limitarlo, di alimentarlo con i materiali didattici specifici della tua classe. Non sei più un nodo passivo di una rete di estrazione globale. Ma l'infrastruttura di base è la stessa. Sì, ma se accettiamo che la comodità vinca sempre e comunque, la battaglia per la sovranità cognitiva è persa prima ancora di cominciare. Rifiutare l'IA commerciale come default assoluto è una scelta profondamente etica. Significa affermare che lo spazio dell'apprendimento non è un mercato. La frattura tra noi mi sa che è insanabile su questo. Tu vedi la scuola come l'ultimo baluardo dell'utopia teorica, una specie di isola che deve resistere al mare del mercato. Io invece vedo la scuola come luogo dell'intervento pragmatico. Devono insegnare ai ragazzi a nuotare in quel mare, perché piaccia o no, è lì che passeranno il resto della loro vita. Nonostante questa distanza apparentemente siderale tra il mio appoggio a Guastavigna e il tuo netto rifiuto delle sue soluzioni tecniche, credo ci sia un punto di convergenza interessante verso la fine del suo articolo e riguarda l'editoria scolastica e il mercato della formazione. Ah, su questo sono curiosa. Guastavigna lancia un forte atto d'accusa contro un certo tipo di editoria opportunista. Descrive queste iniziative con un approccio parziale ma rassicurante che vendono manuali o corsi per docenti con pretesi operativi imbarazzanti. Guarda, su questo singolo punto gli do pienamente, totalmente ragione. Il mercato della formazione docenti si è gettato sull'intelligenza artificiale con una voracità che trovo deprimente. Vero. Stiamo assistendo all'invasione di corsetti di poche ore o libri dal titolo, non so, 100 prompt magici per l'insegnante innovativo, che sono di una superficialità desolante. Non spiegano nulla dell'impatto cognitivo della tecnologia, né in senso estrattivo, come temi tu, né in senso tecnico e funzionale, come auspico io. Vendono solo un'illusione di innovazione rassicurante, sfruttando l'ansia dei docenti di sentirsi inadeguati. Esatto, bravissima. Sfruttano proprio la paura di restare indietro per piazzare prodotti di bassissima lega che non intaccano minimamente la didattica profonda. Ed è la dimostrazione plastica del problema che Guastavigna denuncia dall'inizio. Quando l'educazione incontra il mercato in modo acritico, il risultato è spessissimo un abbassamento drastico della qualità per massimizzare le vendite. Assolutamente d'accordo. L'opportunismo commerciale, che si nutre della confusione che c'è oggi nel mondo della scuola, è un parassita reale. E paradossalmente questi prompt pronti all'uso sono proprio la negazione di quell'esplorazione tecnica rigorosa che io considero vitale per padroneggiare queste macchine. Su questo ci troviamo alleati. Quindi, insomma, per tirare un po' le fila della nostra discussione oggi, io ribadisco che l'articolo di Marco Guastavigna funziona come un indispensabile campanello d'allarme, cioè ci costringe a guardare in faccia la natura predatoria dell'attuale ecosistema tecnologico. Per te sì. E ci ricorda che non possiamo assolutamente scambiare piattaforme progettate per l'estrazione di dati e per l'omologazione culturale in innocui strumenti pedagogici. La via del software libero e degli ecosistemi locali, per quanto ardua e sfidante, rappresenta un orizzonte di vera emancipazione. Dimostra che esiste un modo per abitare il mondo digitale senza rassegnarsi a essere semplicemente dei consumatori profilati. Chiaro. E la mia sintesi invece in chiusura è che demonizzare l'industria tecnologica non offre di fatto alcuna reale via d'uscita. Rifugiarsi in un acquario locale purissimo, fatto di server difficili da mantenere e competenze tecniche inarrivabili per la maggior parte dei docenti, significa tagliare fuori le scuole dall'alfabetizzazione digitale che conta per davvero. Capisco la tua preoccupazione pragmatica. I rischi evidenziati dall'autore sono legittimi, questo non lo nego, ma vanno affrontati sporcandosi le mani con la tecnologia che plasma la società, insegnando agli studenti a interrogarla criticamente e non isolandoli in un'utopia conviviale che alla fine rischia solo di penalizzarli nel mondo reale. Sono due visioni che, come abbiamo visto, rimangono irrisolte. Ed è giusto così, insomma. Il nostro scopo è fornire gli strumenti per analizzare la complessità del tema. Lasciamo a voi che ci ascoltate il compito di esplorare queste tensioni. A te perché di risposte facili non ce ne sono. Esatto. Vi invitiamo caldamente a leggere la fonte originaria. Cercate l'articolo Andiamo Oltre, Ma davvero, di Marco Guastavigna, pubblicato sul sito dell'Associazione Scola, per farvi una vostra opinione diretta. E per chiedervi intimamente se il futuro dell'apprendimento debba essere costruito disconnettendosi dalla rete globale o piuttosto imparando a navigarne le correnti più insidiose. La vera domanda che resta sospesa è se quell'algoritmo sulla cattedra sarà l'apice della logistica del profitto o magari il punto di partenza per riappropriarci della tecnologia. Grazie per aver partecipato a questo confronto. A presto.